Siamo al telefono con Giovanni Sparano, direttore artistico e ideatore di Barezzi Festival. Ciao, intanto come va? Ciao, tutto bene. Grazie per avermi invitato. Allora, dal 13 al 16 novembre tra Parma e provincia ci sarà la 19ª edizione di Barezzi Festival. Ecco, cominciando da qua, qual è il segreto della longevità di questo evento? Ma da un punto di vista organizzativo, sicuramente negli anni abbiamo creato una sorta di bottega, quindi io non sono da solo, ma ci sono tante persone che negli anni, devo dire, l'80% erano proprio spettatori che si sono affezionati al festival e hanno dato poi nel corso del tempo una mano nei vari settori, che ormai sono diventati tanti. Dall'altra, penso che è un festival che non si è mai montato la testa, che ha fatto sempre dei passi ponderati, che poi si è ritrovato grande, perché proprio ogni anno abbiamo aggiunto qualcosa. Penso che siamo stati sempre coerenti con la nostra missione, quindi questa cosa viene percepita non solo dal pubblico ma anche dalle istituzioni e dai sponsor che ci sostengono. E anche quest'anno, insomma, abbiamo una non solo una line-up ricca, ma anche un festival allargato, se così possiamo chiamarlo, perché oltre al Teatro Reggio di Parma, che è un po' la sede principale, diciamo, c'è Busseto, ma c'è anche Milano quest'anno, con alcune preview. Vuoi raccontarci un po' quali sono questi appuntamenti? Alcuni sappiamo che sono già passati, e come avete coinvolto magari anche Milano, che insomma è un po' fuori di mano. Sì, allora, alla base c'è comunque un progetto triennale che è stato fatto proprio per unire i 18 anni ai 20 anni, e quindi, parlando delle preview che adesso abbiamo chiamato Barezzi Way, ci siamo interrogati sul fare comunicazione nei territori al di fuori di Parma, e quindi ci siamo chiesti perché non farlo con dei concerti alla maniera del Barezzi. Quindi l'anno scorso abbiamo creato questi concerti sulla Via Emilia, unendo Bologna, Reggio Emilia e Piacenza. Quest'anno per il 19esimo anno, oltre a Reggio Emilia, che rimane, devo dire, un punto saldo perché ci troviamo bene proprio con la Fondazione dei Teatri, abbiamo coinvolto Milano. Perché? Perché Milano, al di là che ha un bacino di utenza importantissimo, non solo da un punto di vista nazionale ma anche internazionale, però c'entra tantissimo con la vita di Giuseppe Verdi, perché Verdi, proprio nel conservatorio dove noi abbiamo fatto i 25 anni di Canzoni a Manovella di Vinicio, Verdi è stato bocciato quando aveva 19 anni, quindi noi 19 anni, Verdi è stato bocciato nel 1832 nel conservatorio che oggi si chiama Giuseppe Verdi. Abbiamo pensato proprio di unire la storia e la tradizione con l'innovazione. E ci abbiamo portato questo disco che parla del Novecento, parla, intendo Canzone a Manovella, è un disco molto milanese, e il Novecento si apre con la morte di Giuseppe Verdi nel 1901, proprio a Milano, al Grand Hotel di Milano. Devo dire, abbiamo fatto anche un'anteprima di presentazione nella casa di riposo per i musicisti, che secondo Verdi è la sua opera più bella, questa casa di riposo che ancora adesso funziona e ha come ospiti vecchi cantanti della Scala, ballerini, registi, e devo dire che è commovente, perché in questo posto fanno 3 concerti a settimana e c'è una bella media che supera i 90 anni, proprio perché fanno attività tutti i giorni di tipo artistico. L'abbiamo un po' dedicato ai Pianoforti di Lubecca, che è un brano che sta all'interno di Canzone a Manovella, proprio perché abbiamo immaginato questi cantanti che vanno a riposare in questo posto. E quindi devo dire che l'obiettivo di far conoscere il festival, che poi per questo nasce Barezzi Way, in altre città e al di fuori di Parma, è riuscito, perché ci sono state tante interazioni, è stato un evento molto importante anche per lo stesso Vinicio, che ha rilanciato sulle sue pagine tutti i nostri contenuti. E l'anno prossimo, che faremo 20 anni, Barezzi andrà a Londra come ventennale, quindi ritornando alla triennalità abbiamo pensato prima all'Emilia, poi Milano e poi internazionale, proprio per promuovere il festival fuori. Il festival si svolge sempre nelle terre di Verdi, quindi Parma e provincia, e abbiamo unito questi 3 teatri stile ottocentesco, che sono il Teatro Reggio di Parma, il Teatro Magnani di Fidenza e il Teatro Verdi di Busseto, che è il posto dove è nato Giuseppe Verdi e anche il paese natale di Antonio Baretti. Beh, direi che insomma c'è tantissima, tantissima roba interessante. E arrivando invece al programma, quello del, diciamo, la parte più intensiva di questo festival, quindi da giovedì 13 fino a domenica 16 novembre, qual è il programma, quali sono le band che avete chiamato e magari anche perché? Quest'anno il marchio è molto rock, minimalista e è un po' nord europeo, infatti le grafiche riportano un po' quei colori. Come headliner abbiamo i Spiritualized, abbiamo Soppe Skin, i Moom, abbiamo l'unica data italiana di Tom Smith che è frontman degli Editors, abbiamo i King Gunnan, c'è il ritorno di Mika Pinson con il suo nuovo album. La cosa interessante di quest'anno, al di là dei due concerti dell'inizio e della fine, che si apre a Busseto e si chiude a Fidenza, il cuore a Parma, al Teatro Reggio, dove quest'anno sperimentiamo questo doppio live, cioè avremo un live alle 18 e un live alle 21. Il venerdì King Gunnan alle 18 e poi Tom Smith alle 21, il sabato Soppe Skin alle 18 e Spiritualized alle 21, con doppio biglietto e doppio ingresso. In mezzo e prima e dopo abbiamo creato un festival bello ricco, legato alla gastronomia, legato all'editoria, legato allo spazio per i nuovi talenti emergenti, proprio per dare l'opportunità alle persone che vogliono prendersi una pausa di 2 o 3 giorni di posare la macchina e viversi questo centro storico di Parma che è bellissimo. Effettivamente è molto bello e Baresi lo arricchisce molto. Ecco, il claim di quest'anno è brzz, tipo codice fiscale, una brezza, un brivido, un buzz. In che senso e perché avete scelto un po' questo claim? Ma perché io penso che è legato un po' a questo termine che è aria, no? Che è legato comunque al mondo operistico, no? Anni fa abbiamo utilizzato sinfonia, quest'anno l'abbiamo preso un po' in modo tangente, proprio perché abbiamo avuto il nostro direttore creativo che si è sbizzarrito anche con la parola Barezzi, però di fatto è quello che le persone provano quando vengono al Barezzi, cioè nel senso che vengono un po' avvolti da quest'aria differente in questi 3 giorni che sono davvero unici e sono legati comunque sempre alla storia e alla tradizione, quindi al contesto lirico dove ci troviamo, che è quello del Teatro Reggio. Perfetto, noi non possiamo che essere d'accordo con questa atmosfera. Niente, io a parte ricordare che poi tutto il programma e tutto Baresi lo raccontiamo anche sul sito radiocittafugico.it e su festivalsbackpack.it, ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e ti chiederei come ultima cosa se hai una canzone presa tra gli artisti che saranno quest'anno al festival, magari per salutarci e iniziare a entrare un po' nel mood di Baresi Festival. Io direi quella degli Spiritualized, legata all'album del 1997, Ladies and Gentlemen, quindi penso che sia il mio omaggio che possiamo dare a questa edizione. Perfetto, grazie mille Giovanni, appuntamento a Baresi Festival. Grazie mille. Un abbraccio, arrivederci.